La questione in particolare non è tanto il giusto concetto di diritto d'autore oppure no, ma l'uso che ne viene fatto. Praticamente noi ci troviamo adesso in questa situazione perché le grandi major hanno fatto un uso smodato di questo diritto d'autore. Alla creatività individuale di un artista. Diritti d'autore non se ne sono appropriati. Perché ritengo che è tutto legale. Bombe intelligenti su Kabul, sopra lo sgomento che ci resta, un incendio ci sorprenderà. Bombe intelligenti su Kabul, sopra lo sgomento che ci resta. Queste finte verità. Donati una possibilità, donati una possibilità, donati una possibilità, donati una possibilità, donati una possibilità, donati una possibilità.